Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, un saluto da Francesco Galante a tutti voi amici di Blu Radio Veneto, ma anche un saluto al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di un caso particolare che è successo a una persona che era in un vaporetto a Venezia, un caso che ci racconti perché ve ne state interessando. Sì, non è la prima volta, Francesco, che ci occupiamo di questo genere di problematiche legate appunto ai trasporti pubblici. Questa volta non si parla di multe o di servizi, ma di un incidente anche abbastanza divertente, possiamo tentare di dire. È capitata una persona che si è trovata a bordo di un vaporetto e mentre era seduto nel suo posto tranquillamente dietro, quindi diciamo a Venezia in questo caso ovviamente, un'onda anomala l'ha completamente travolto. E un disagio che questa persona si è trovato a dover subire, il suo computer, un Mac di oltre 1000 euro, praticamente è andato in tilt e non ha funzionato, e quindi dopo ha pensato bene di rivolgersi ad Adico per effetto di quelle che sono state tutta una serie di risposte negative che ha ricevuto da parte della compagnia di viaggio. Ecco, la cosa che andiamo subito a precisare è che questo signore, era una bella giornata, insomma, non pioveva, no? Si è proprio trovato colpito da una secchiata d'acqua che evidentemente per una manovra forse un po' ambigua gli è capitata e gli ha rovinato questo Mac. Subito ha presentato i reclami, no? Anche con chi guidava il vaporetto, chi c'era insomma a fare l'assistenza e che ha confermato che questa cosa era accaduta. Sì, non c'è dubbio che il signore è rimasto vittima di una situazione veramente incredibile, alla quale veramente si è subito attivato, andando da quello che sono stati il personale della compagnia, denunciando quanto accaduto, anche se era palese perché era fradicio il signore. Gli stessi addetti lo hanno accompagnato a sporgere denuncia alla compagnia per ottenere insomma le sue spettanze. Dopodiché passano le settimane, passa il tempo e alle sue dimostranze ha ricevuto un diniego, al quale il signore giustamente non ha voluto comunque mettersi via la risposta ed ha pensato a rivolgersi all'Adico tramite lo sportello che abbiamo in risarcimento, che gestisce fondamentalmente un po' tutto questo tipo di problematiche. È uno sportello che offre un servizio di consulente dedicato a queste persone che rimangono vittime di incidenti o di situazioni come queste dei signori durante i viaggi, trasferimenti o episodi di mala sanità e via dicendo, i quali i nostri legali prontamente hanno acquisito tutta la documentazione e hanno provveduto alla compagnia a inviare una diffida al quale si intima loro di provvedere al rimborso per effetto dei danni che il signore ha subito e di quale testimonianze di senso appunto del personale hanno potuto validare che insomma non si tratta certamente di una situazione voluta ma mal capitata, e riteniamo che ci siano tutti gli schermi per ottenere il risarcimento dovuto. Ecco, quindi tramite il vostro sportello questo signore chiede alla CTV di Venezia insomma di essere rimborsato delle spese che sta affrontando per riparare il suo Mac e anche forse anche il telefonino, proprio se è stato particolarmente sfortunato. Adesso le aspettative dell'Adico quali sono? Ci saranno tempi brevi oppure no? Sì, forse anche il telefonino, ma anche poi i disagi che il signore ha dovuto subire, perché ricordiamo che il signore aveva un appuntamento da fare e si stava inoltrando verso a questo appuntamento. Ricordiamo che il signore ha agito bene perché ha accolto testimonianze, ha fatto denuncia, reclami, eccetera. Preciso anche lo sportello, che è uno sportello al quale i consulenti offrono un servizio di assistenza completa, gratuita anche durante tutto lo svolgimento dell'iter come il signore sta in questi giorni affrontando, E certamente gli obiettivi sono quelli di poter ottenere un risarcimento o una risoluzione della pratica in tempi celeri, altrimenti saremmo costretti a venire ad altre vie certamente molto più onerose per l'azienda. Ma certamente una situazione è stata determinata anche dal bel tempo, il quale il signore era nel suo posto insieme ad altre persone, però chiaramente i disagi li ha avuti lui perché era quello più esterno rispetto alla fila di sedie. E insomma, riteniamo giusto che un'azienda, quando si trova di fronte a queste situazioni, provveda anche a risarcire e non solamente a complicare le procedure. Certo, anche perché immagino che avranno una loro assicurazione che garantisce questi fatti, quindi non vedo perché di fronte all'evidenza non andare a chiudere il discorso. Vabbè, staremo a vedere. In ogni caso l'Adico è sempre precisa e presente su queste cose. Ricordo l'associazione difesaconsumatori.it è il sito da andare a vedere. A questo punto ti ringrazio, caro Carlo, per essere stato con noi e rinnovo l'appuntamento con l'Adico a lunedì prossimo. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.